Sono andato via ma non chiedermi porco a je te. Ma come cazzo dura senza di te? Sono con tre killer dentro un Mercedes van bam bam. Fumo hash mentre bevo Capri-San. Dio mi ha benedetto, condannato non si sa, yeah yeah. Mio fra colpi precisi come Van Damme. Vedo questi volti infelici, non sono star, gang gang. E non passa la notte tra cose risolte. Poi facciamo a botte, yeah yeah. Sembra che lo fa apposta. Prima mi procidi, non c'è una risposta, weh weh. Ora addosso mille flash e sono in ansia per le pare. Sono fatto di tre droghe che in passato troppo male. Quell'amore tossico, tossico per le scale. Ha infamato mio fratello, mo deve ricominciare. Ok ok, non perdono, non dimentico. Faccio il mio lavoro, resto zitto e dopo tremano. All'inizio stavo in affitto, ora una casa più grande. Ora è meglio ti stai zitto che ti lasciamo in mutande. Yeah yeah yeah. E non passa la notte tra cose risolte. Poi facciamo a botte, yeah yeah. Sembra che lo fai apposta. Prima mi più uccidi, non c'è una risposta, weh weh. Mi bastava lei, un Capri-San. Nessuno sa niente, non sanno la verità, yeah. Mi bastava lei, un Capri-San. Per sti soldi euro si corre dove si va, yeah. I soldi euro si corre dove si va, yeah. Ho perso fratelli, amicizie, non finirà mai. Avevo una sola speranza, mi è andata bene. Con le ho perso sì tutte le speranze che non conviene, yeah. Se sei strada è sempre una guerra, non ne uscirai. Finisce di merda, poi piangi ciò che non hai. Ora non mi fido che attorno c'ho solo iene. Faccio bene, torna male, ci sono persone vere. No, non credo, in un mare di merda io m'annego. Chi rimane a bordo è uno vero, tutto gonfio appena sveglio. Sera prima in club in movimento. Sto incassando ora un'altra senior. Lei mi guarda poi mi tenta, lei mi guarda poi mi tenta. Devo stare bella attento, devo stare bella attento. Lo so bene che mi mento, lo so bene che mi mento. Ma io so mentire meglio, ma io so mentire meglio. Ah. E non passa la notte tra cose risolte. Poi facciamo a botte, yeah yeah. Sembra che lo fai apposta. Prima mi più uccidi, non c'è una risposta, weh weh. Mi bastava lei, un Capri-San. Nessuno sa niente, non sanno la verità, yeah. Mi bastava lei, un Capri-San. Per sti soldi euro si corre dove si va, yeah.